ho capito subito dai tuoi occhi lucidi che un altro amore inutile se n'è andato via con lui. Non piangere, ci guardano e penseranno, amica Cenerentola, che sono io quel mascalzone che ti ha detto addio. Accidenti agli uomini, tutti quanti meno te e la tua spalla magica su cui fa bene piangere. È colpa mia, è colpa mia che mi innamoro e sbaglio sempre favola. E il principe è un egoista e pensa solo a sé. Che peccato tu sia, troppo bella per me. Questa nostra amicizia è uno stato di grazia, ma un amore non è. Spesso ci ho pensato anch'io a un amore tuo e mio, a una storia tipo sai Pretty Woman, Richard Gere. Stasera sai direi di sì, ma poi lo so sarebbe dura smettere, far finta che non è cambiato niente dentro me. Che peccato che sia troppo bella per me. Questa nostra amicizia, questa nostra Venezia, che per gli altri proviamo, che ne sai? Non voglio metterti nei guai. Un bacio e poi finisce lì. Mettiamo che ti dica sì. Come due sonnambuli, solo per sognare un po'. Oh, forse due sperduti naufraghi al calore di un falò. Per ridere o piangere, sbagliare è sempre meglio che non vivere. Può essere peccato che non sia. Voglio metterti nei guai. Un bacio e poi finisce lì. Mettiamo che stasera io ti dica sì. Un bacio e poi ti giuro che finisce qui. Un bacio e poi ti giuro che finisce qui. Un bacio e poi ti giuro che finisce qui. Ma c'è poi, ti giuro che finisce qui.